mind. Do the bumps of time in your prime. Ciao a tutti e a tutte, how does it feel Fabio? Così subito, non te l'aspettavi. Fine? Mercoledì, martedì 25 maggio, ciao a tutti e a tutti, Radio Onda Rossa, inizia una nuova puntata di Note Cose Città. Ieri abbiamo festeggiato il compleanno della nostra radio preferita, Radio Onda Rossa. Il radio abbonamento è sempre attivo, andate sul sito www.ondarossa.info. .06491750 per mettervi in contatto con noi. Oggi ne omaggiamo un altro di personaggio che ha fatto il compleanno, ha fatto qualche annetto in più rispetto alla Onda Rossa, no? 36 in più, 80. 80. E ovviamente il signore in questione è Dylan, Bob Dylan. Vabbè, che lo dici così, come no, poi dopo il silenzio. Vabbè, silenzio, dai. Se ti piace, crea sto pathos. Quale pathos? Vai. Cominciamo così a secco? Così, a secco, no. Dry. No, seriamente, puntata, arriviamo con un giorno di ritardo, ma comunque ci sembra giusto celebrare un personaggio così importante, un peso massimo certamente della musica popolare del Novecento e anche di questi primi vent'anni del XXI secolo. Uno, nessuno, centomila, così abbiamo chiamato la puntata. Dylan è ormai diventata una frase fatta e contiene moltitudini, lo sappiamo tutti. C'è un Dylan folk, fatto forse suo malgrado, paladino dei diritti civili, c'è il Dylan della svolta elettrica, il Dylan esule, il Dylan di Blood on the Tracks, quello del Rolling Thunder Review, e ancora c'è il Dylan che si converte al cristianesimo per rinnegarlo neanche due anni dopo, quello dei dischi inascoltabili degli anni 80, quello della rinascita, c'è il Dylan dell'ending tour, il Dylan che da vent'anni porta sulle spalle il peso della tradizione musicale americana, il nascondimento... C'è anche il Dylan Dog, nel primo numero, forse di Dylan Dog, tutti dicevano Dylan Dog per far capire com'era la pronuncia esatta, nessuno chiama Bob Dylan. Bob Dylan. Il nascondimento è probabilmente il suo modo di preservarsi, questa frase rubata a Vinicio Capossella che ieri ha dedicato qualche riga su un sito internet, qualche riga al un testo agli 80 anni di uno dei suoi mentori. Dicevo, il nascondimento è probabilmente il suo modo di preservarsi, infatti non deve essere facile neanche per lui essere Bob Dylan. Nel corso della sua carriera ha venduto 125 milioni di dischi, per bacco. Ha vinto 10 Grammy, si è aggiudicato l'Oscar nel Golden Globe nel 2001 per Things Have Changed, dalla colonna sonora del film Wonder Boys, nel 2008 gli è stato consegnato il Pulitzer per la poesia, nel 2016, come tutti sapete, gli è stato dato invece il Nobel per la letteratura, sollevando molte polemiche. È uno dei pochissimi artisti al mondo che con la sua musica e con i suoi dischi ha attraversato ben 7 decenni, dall'esordio del 62 omonimo all'album uscito nel giugno del 2020 che si chiama Rowdy Way, e questa è proprio la chiave che abbiamo deciso di utilizzare per la nostra puntata, cioè scegliere una sola canzone per ciascun decennio attraversato dal nostro Dylan. Ci sarà una sola eccezione ed è facilmente intuibile, però lo vedremo dopo. Il nostro viaggio nello straordinario canzoniere di Dylan, canzoniere che tra l'altro ha venduto pochi mesi fa per 300 milioni di dollari alla Universal Music. E dicevo, il nostro viaggio comincia proprio con un pezzo del suo ultimo magnifico album. Il pezzo si chiama False Prophet. False Prophet è un blues ruvido come tanti dei pezzi degli ultimi anni di Dylan. Già nel titolo evoca una delle maschere più spesso associate a lui, cioè quella del profeta. Nella canzone però sembra rivendicare questo ruolo, dice di non essere un falso profeta, però aggiunge subito dopo che lui non è la sposa di nessuno, e ancora dopo che riesce a ricordare quando è nato ma di aver dimenticato quando è morto. Bob Dylan, False Prophet. Another day that don't end, another ship going out, another day of anger, bitterness, and doubt. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world, and the world came in. Hello, Mary Lou. Hello, Miss Pearl. My fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business, and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm the enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go. I'm first among equals, second to none, the last of the best. You can bury the rest, bury them naked with their silver and gold. Put them 6 feet under, and I pray for their soul. What are you looking at? There's nothing to see, just a cool breeze that's encircling me. Let's go for a walk in the garden, so far and so wide. We can sit in the shade by the fountain side. I search the world over for the Holy Grail. I sing songs of love, I sing songs of betrayal. Don't care what I drink, I don't care what I eat. I climbed a mountain with swords on my bare feet. You don't know me, darling, you never would guess. I'm nothing like my ghostly appearance would suggest. I ain't no false prophet, I just said what I said. I'm just here to bring vengeance on somebody's head. Put out your hand, there's nothing to hold. Open your mouth, I'll stuff it with gold. Are you poor devil? Look up if you will. The city of God is there on the hill. Hello and goodbye. You rule the land, but so do I. You lusty old mule, you got a poison brain. I'll marry you to a ball and chain. You know, darling, the kind of life that I live. When your smile meets my smile, or something's got to give. I ain't no false prophet, nah, I'm nobody's bride. Can't remember when I was born, and I forgot when I False Prophet, Bob Dylan, primo pezzo per questa puntata dedicata al menestrello, che poi tra l'altro da uno che una canzone per decennio da uno che ha cominciato sul palco insieme a Holly Wolf e Muddy Waters, direi che non è male. Un po' di blues l'avrà imparato, no? Certamente abbiamo adesso ascoltato gli anni 20 del XXI secolo, però il nostro racconto musicale facciamo adesso partire dall'inizio, dalle origini, dagli anni 60. Ma se mi viene, scusami, se mi viene, lo posso cantare il ritornello? Assolutamente. Perché proprio quando parte il ritornello di questa canzone non ce la faccio. Vabbè, in caso abbasso tutto. Allora, non ripercorriamo qui la biografia, ma comunque siamo a New York. Dylan è arrivato da poco, è arrivato dal suo Minnesota. In poco tempo ha conquistato tutti, è già un idolo ancora prima di tutti, tutta una certa New York, non tutti, quella del Greenwich Village e dei caffè che hanno, insomma, che hanno legato gli anni 60 a tutta la stagione della Beat Generation, per brutalizzare. Comunque arriva a New York, il suo nome comincia a passare di bocca in bocca, diventa, è amatissimo, un idolo, dicevo, tant'è che lui il primo album parte subito dai piani alti, il contratto è direttamente con la Columbia. Il primo album, il primo disco l'abbiamo citato prima, nel 62, omonimo, un gran bel disco. Subito dopo, però, nel 63 arriverà uno dei dischi più amati, The Free Willing of Bob Dylan. Dylan, soprattutto per chi non lo ama particolarmente, per chi non è un appassionato, non è così appassionato alla musica, Dylan poi resterà questo, quello soprattutto di Free Willing, di questa stagione qui comunque. E come vi siete accorti in questi giorni di celebrazioni nei diversi telegiornali o radiogiornali, insomma, poi nei titoli dei quotidiani, le canzoni che tornavano erano sempre più o meno le stesse, grandissimi album. E quindi questo è il momento in cui nei 100, uno nessuno e 100.000, ecco, nelle tante maschere di nei tanti volti che ha indossato Dylan, questo è quello che abbiamo detto prima, il paladino dei diritti civili, il cantatore impegnato, quello che appunto è più rimasto nell'immaginario collettivo. In realtà lui non apriamo qua lunghe digressioni, non si è mai particolarmente sentito questo, non ha mai voluto essere questo, lo vedremo dopo. Comunque in questa stagione è fuori di dubbio che scrive delle grandissime canzoni, però noi non abbiamo scelto di non farvi ascoltare nessuna, per esemplificare, per farvi ascoltare questo Dylan, nessuna canzone di Free Willing. Abbiamo scelto il disco successivo, un disco non così celebre, ma comunque altrettanto celebre, cioè comunque sempre celebre, scusate il gioco di parole. La sola copertina, no? Certo, è iconica, come dice, The Times They Are a Changing. Questo è l'album. Da questo album abbiamo scelto una canzone che forse è la più perfetta, anche se non si dice, una canzone che esemplifica nella maniera migliore la tradizione folk. Cioè, la canzone si chiama, innanzitutto, non ho detto il nome, The Lonesome Death of Etty Carroll. Dylan sceglie di raccontare questa canzone. Questa canzone racconta un omicidio brutale da parte un uomo, un latifondista del sud degli Stati Uniti, uccide a bastonate la sua cameriera afroamericana per nessun motivo, così, perché gli andava. Questa era la notizia che Dylan legge sui giornali, anche se poi in realtà non è proprio questa la storia, ma non è più importante, lui comunque la fa diventare vera, autentica e universale. Soprattutto lui si indigna nel leggere questa notizia, ne appunta i particolari nella sua proverbiale memoria, e mesi dopo in California scriverà il testo della canzone. Prima di farvela ascoltare è importante spendere due parole sulla struttura, perché lui qui porta, come dicevo prima, la perfezione. Non solo racconta la storia, non solo suscita indignazione e commozione, ma è proprio un esercizio retorico perfetto, come lui, la sintassi della canzone, come lui la costruisce. Cioè, nella prima strofa lui riporta, come un giornalista, i fatti, cioè dice che Etty Carroll è stata uccisa. Tra parentesi, lui non dice mai nella canzone che Etty Carroll è nera, che è una afroamericana, e così capire. Basta, lo capisci, ma lui non lo dice mai. Nella seconda strofa presenta l'omicida, la difondista. Nella terza strofa racconta invece di lei, ci dice chi è Etty Carroll, madre di 10 figli, una donna molto riservata, uccisa così per un attacco di follia di un pazzo latifondista, sì. Solo in tutto questo lui, c'è la lunga strofa, c'è il ritornello in cui dice, tradotto ovviamente in italiano, dice aspetta, un troll. What do you do now, my blue-eyed son? Scusate, non trovo il punto, ma voi che filosofeggiate sulle disgrazie e criticate ogni paura, non portatevi il fazzoletto agli occhi, non è ancora arrivato il momento di piangere. Questo lo ripetere dopo tutte le tre strofe, cioè sale, sale, sale e poi stempra con questo ritornello, dice non piangete, non è questo il momento. Dopo le prime tre strofe c'è un solo di armonica, quarta strofa racconta come poi qual è il motivo per cui veramente vi dovete indignare, al di là dell'orrore che vi ho appena raccontato. Vi dovete indignare perché arrivato a giudizio questo latifondista, Zanzinger poi è il suo nome, il giudice fa un lungo cappello, dice che la legge vale per tutti, che la corte non fa distinzione tra bianchi e neri, ricchi e poveri, che questi negli Stati Uniti, insomma, anche lui spende i suoi paroloni per poi condannare a, e c'è una pausa nel canto di Dylan, a sei mesi di carcere, a soli sei mesi di carcere questo omicida. Arriva il ritornello, cambia un po' le parole dicendo adesso è arrivato il momento di piangere. Noi ce l'ascoltiamo. Williams and Zinger killed poor Hattie Carroll with a cane that he twirled around his diamond ring finger at a Baltimore hotel society gathering. Then the cops was called in and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station and booked Williams and Zinger for first degree murder. But you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. Williams and Zinger, who had 24 years, owns a tobacco farm of 600 acres with rich, wealthy parents who provide and protect him, and high office relations in the politics of Maryland reacting to his deed with a shrug of his shoulders and swear words and sneering, and his tongue it was a snarling. And in a matter of minutes on bail was out walking. But you who philosophize disgrace and criticize fears, from your face. Now ain't the time for your tears. Hattie Carroll was a maid in the kitchen. She was 51 years old and gave birth to 10 children who carried the dishes and took out the garbage and never sat once at the head of the table and didn't even talk to the people at the table who just cleaned up all the food from the table and emptied the ashtrays on a whole other level. Got killed by a blow, lay slain by a cane that sailed through the air and came down through the room, doomed and determined to destroy all the gentle. And she never done nothing to Williams and Zinger. And you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. In the courtroom of honor, the judge pounded his gavel to show that all's equal and that the courts are on the level, and that the strings in the books he pulled and persuaded, and that even the nobles get properly handled once that the cops have chased after and caught him, and that the ladder of law has no top and no bottom. Stared at the person who killed for no reason, who just happened to be feeling that way without warning. And he spoke through his cloak most deep and distinguished, and handed out strongly for penalty and repentance Williams and Zenger with a 6-month sentence. Ah, but you who philosophize disgrace and criticize all fears, deep in your face, for now's the time for your tears. The Lonesome One, Death of Etty Carroll, Bob Dylan. E quindi lo abbiamo lasciato al 1964, ormai è un idolo, è un paladino dei diritti civili. E molto probabilmente questa immagine che gli viene dipinta, che gli viene, diciamo, etichettata dalla stampa, dei giornali, non gli va, no? Molto a genio. Lui è parte di una stagione di un movimento, certo. Che lui è quello che suona. Però, diciamo, non vuole essere identificato. Prima del discorso di Martin Luther King a Washington, cioè anche lui stesso, insomma, partecipa a tutto in qualche questo. Modo. Ma certo non vuole essere. Ma certo non bandiera. Vuole essere una bandiera, tanto che c'è un evento molto famoso nel 1965, e da qui la nostra, diciamo, eccezione alla struttura della puntata, perché non potevamo proprio non dedicare due album al 1965, al decennio degli anni 60, un po' per tutti i capolavori che lui ha scritto in quegli anni, è proprio perché c'è in pratica un altro Dylan, ovvero Dylan è sempre lui, però il modo in cui si presenta al pubblico il 25 luglio del 1965 al Newport Folk Festival. Lui era già stato in questo festival nei due anni precedenti, 63-64, qui era stato incoronato come, diciamo, con lo scetto del re del folk, l'erede di quella tradizione musicale, sia da solo che in coppia con l'amica John Betts, e da pochi mesi era uscito Bringing It All Back Home, che conteneva tra l'altro una canzone che si chiama Maggie's Farm, in cui lui già aveva qui messo all'interno del testo qualcosa che i più, magari i più attenti, avranno colto all'epoca, chissà. No, soprattutto l'avranno colta, lo racconterete sicuramente dopo, il giorno del festival l'avranno colta. Il pubblico del festival, che glielo canta in faccia: faccio quel che posso per restare quel che sono, ma qui tutti pretendono che tu sia come loro. E lui in sostanza li manda un po' paese. A quel paese, e quindi si presenta sul palco quel 25 luglio 1965. Tra l'altro, 5 giorni prima esce il singolo che stiamo ascoltando in sottofondo, una canzonetta, una delle più importanti canzoni del Novecento. Lo dice Glenn Marcus, non lo diciamo noi, per cui stateci. E quindi sale su questo palco, invece di presentarsi come era solito fare con la sua chitarra e l'armonica, si presenta proprio con una band che conteneva Mike Bloomfield alla chitarra, alcuni elementi della Butterfield Blues Band e Lemon di Al Kooper, che è proprio l'autore anche dell'intro di Like a Rolling Stone. E succede il finimondo, perché dagli spalti non sono molto contenti, cominciano i fischi, cominciano gli insulti, poi qui un po' le storie si rincorrono, sembra la maggior, alcuni dicono il perché non si sentiva bene, altri che la maggior parte del pubblico stava protestando. Comunque sicuramente non fu un'esibizione per cui gli spettatori paganti, diciamo, stavano avendo molto entusiasmo. Infatti il set durò soltanto una ventina di minuti, c'era Pete Seeger che minacciava di... Comunque, al di là del fatto che fossero meno troppo delicati e troppo conservatori, il pubblico folk che stava lì, conservatori dal punto di vista musicale intendo, quello che che ha fatto Dylan dal vivo, che in cui non solo nel 65 ma pure nell'anno successivo suonava, era molto hard per l'epoca, non era certo. Adesso a noi sembra sembra una cosa quasi normale, però insomma ancora oggi a distanza di più di 55 anni ancora se ne parla come uno dei momenti più rock, più punk, un po' lo schiaffo da Nagni della musica, no? E quindi insomma c'era un pizzica che minacciava, datemi un'accetta che trancio i cavi. Alan Lomax, che faceva parte dell'organizzazione, andò dai fonici a dirgli: ma che effetto c'ha la voce? Non si capisce nulla. E loro che gli dicevano: no, ma guarda, lui la vuole così. Insomma, lui è costretto Dylan a uscire dal palco, poi darà un contentino al pubblico, perché poi alla fine di questo si trattò, lo convincono a rientrare, suonerà un paio di brani, credo Mr. Tambourine Man, soltanto con la chitarra e l'armonica, parte poi per una tournée in Inghilterra, sia nel 65 che nel 66, e anche qui la notizia di questo cambiamento sicuramente era anche arrivata in Inghilterra, però ovviamente non c'erano i mezzi di informazione come oggi, quindi magari il pubblico non si immaginava, oppure era anche semplicemente curioso. Dylan stesso dice: sembra che fossero venuti al concerto solo per fischiarmi, per cui le polemiche, i fischi, lui entrava sul palco con il set acustico e poi rientrava con tutta la band, gli davano del venduto e ricevette minacce. Qualcuno entrò a un certo punto durante un concerto, gli disse: guarda, qui hanno detto che ti sparano se rientri sul palco. E poi c'è anche il famosissimo episodio, quello che trovate anche ovunque, del Giuda, che a un certo punto gli gridano durante un concerto a Manchester, lui si rivolge a questa persona che gliel'ha gridato, dice: non ti credo, sei un bugiardo. Poi si gira verso la band, che poi è quella che sarebbe diventata The Band. E gli dice: suonate forte cazzo, e parte Like a Rolling Stone. Noi però ci ascoltiamo la traccia che ha dato il via a tutto questo, quello che ha fatto, diciamo, ha presentato il nuovo Dylan elettrico al pubblico, quella di Newport 1965, e questa è Maggie's Farm. Yeah. Insomma, al termine della tournée inglese, Dylan ritorna a casa, non sta proprio benissimo perché insomma la tournée è stato un susseguirsi di fischi, di insulti, di persone che ci ha tradito, non è più lui, si mette a fare la musichetta pop, insomma gliene dicono abbastanza di tutti i colori, e arriva un po' provvidenziale, sembra brutto dirlo, però poi alla fine di questo si tratta, talmente provvidenziale che qualche maligno dice no, in realtà non c'è mai stato un incidente in motocicletta, e sembra che appunto abbia fatto questo incidente poco dopo il ritorno negli Stati Uniti, e si ritira proprio dalle scene, non fa più nessuna tournée per circa 7-8 anni, anche se partecipa poi a qualche concerto, va a suonare con l'amico George Harrison al Concert for Bangladesh, va all'isola di Wight, non va a Woodstock, seppur abitando proprio... Gliel'hanno fatto dietro casa. Gliel'hanno fatto proprio dietro a casa, lui la sentiva infatti da casa sua, eh? Secondo me fu tutto una cosa per non pagare il biglietto, poi alla fine si scoprirà anni dopo, segnatelo. E noi entriamo quindi negli anni 70, perché poi arrivano tra l'altro una serie di album, intanto arriva Blonde on Blonde, che qualche giorno fa ha festeggiato i 55 anni, a chiudere un po' la trilogia elettrica dei due dischi precedenti, arrivano altri album che necessariamente di fronte a cotanti capolavori non raggiungono anche giustamente quelle vette, però insomma ci stiamo avvicinando a quello che per tanti è uno dei capolavori, non solo di Bob Dylan, il capolavoro di Bob Dylan, anche uno dei dischi più belli della storia della musica, perché nei primi mesi del 74 arriva appunto la notizia di una serie di session che si stanno svolgendo a New York e che entreranno poi a far parte del nuovo disco che si chiama Blood on the Tracks. Il disco viene registrato a seguito della crisi sentimentale che Dylan stava affrontando in quel periodo con la moglie Sara, e aveva 4 figli se non sbaglio insieme a lei, e fu insomma evidentemente, visto proprio il titolo, no? Il sangue sulle tracce, una separazione piuttosto dolorosa. Il disco, qui la poesia ovviamente di Dylan, quindi si concentra sull'amore, proprio sul dolore. Il disco esce con un po' di ritardo rispetto alla tempistica prevista, i motivi sono diversi, prima c'era un problema sulla copertina e poi soprattutto di fondo Dylan non riusciva a scegliere praticamente che sound dare, non riusciva a trovare una forma alle melodie che aveva in testa, entra in studio con diversi gruppi, prova diverse formazioni, poi sceglie di entrare in studio solo con un bassista, la sua chitarra e l'armonica, poi arriva sotto le feste di Natale, ritorna a casa, va a Minneapolis, qui c'è il fratello che il cui giudizio Dylan per tutta la sua carriera è stato sempre molto importante, e gli dice guarda, secondo me alcune tracce dovresti rifarle, e lui così fa, entra in studio con un gruppo di musicisti proprio di Minneapolis, che tra l'altro se non sbaglio non verranno accreditati nel disco, no. E si scoprirà soltanto poi anche abbastanza recentemente chi fossero, e poi e qualche anno fa tra l'altro è uscito invece un cofanetto molto imponente, sono 6 CD se non sbaglio, che ripercorrono proprio tutta la genesi del disco, dalle session newyorkesi, quelle scartate, quelle con le varie registrazioni, fino a quelle di Minneapolis. E quindi esce questo disco che è un po' un ibrido, perché i suoni sono proprio diversi, però il lavoro è una cosa assolutamente magnifica, e tra le tracce che sono state scartate dalle registrazioni newyorkesi e sono entrate poi nella versione di Minneapolis, ce n'è una in particolare che ci piace molto nella versione in realtà originale, quindi quella newyorkese, ovvero You Are Gonna Make Me Lonesome When You Go. È una delle tracce che ascoltando il disco a entrambi, no Fabio, penso di parlare anche a nome tuo, uno avrebbe voluto dire però forse perché non hai messo quest'altra, per carità anche quella sul disco è magnifica, però questa qui ci ha convinto più delle altre, e noi ce l'ascoltiamo. You have gone make me lonesome, lei ciao lonesome when you go Bob Dylan, che tac e castagnole. Never been this close before. Never seemed so easy or so slow. Been shooting in the dark too long. When something's not right, it must be wrong. You're gonna make me lonesome when you go. felt so high, but I've only known callous love, and it always has hit me from below. But this time round it's more correct, right on target, so direct. You're gonna make me loads when you go. Purple clover, Queen Anne lace, crimson hair across your face. You could make me cry if you don't know. And remember what I was thinking of. You might be spoiling me too much, love. You're gonna make me loads when you go. Crickets talking back and forth, rhyme. Blue River running slow, lazy. I could stay with you forever and never realize the time. Situations have been insane. Relationships have all been bad. Fabio, se sei d'accordo con me che il titolo neanche vale la pena ripeterlo. Perché? No? perché mi ci impiccio, sì, veramente. E questa era Doubleton the Tracks, che poi tra l'altro mi era venuto in mente una cosa che volevo dire prima, per riallacciarmi al tuo discorso iniziale, di quanta fatica poi ha fatto Bob Dylan per togliersi, no, i panni di questo, diciamo, vate, di questo... John Betts racconta nel film di Scorsese che anche durante il corso degli anni 70, quando lei partecipava ai sit-in, alle manifestazioni, spesso la gente la fermava e le chiedeva, dice: ma Bob Dylan viene? Lei diceva: no, raga, Bob Dylan non viene, dal 64 non partecipa più a niente, a nessuna manifestazione, a nulla, proprio si è allontanato. Noi abbiamo lasciato Dylan di questo splendido Blood on the Rex che esce nel 75. Questo è un periodo, torna un periodo abbastanza molto fortunato, molto ricco dal punto di vista creativo di Dylan. Suona mentre esce Blood on the Rex, lui nel quel folle tour che si chiama Rally Thunder Review. Gli ha dedicato un documentario da un paio d'anni, lo scorso anno, Scorsese, insomma. Se non l'avete visto, è di facile reperibilità, vedetelo perché merita. E partecipa a un film, esce a Pat Carter and Billy the Kid, e di cui firma la colonna sonora, e va in tour con The Band, con cui registra Planet Waves e anche un disco dal vivo. Sono anche poco prima c'è stata la stagione dei Basement Tapes di lui nel Esibule con The Band a suonare in uno scantinato, a fare grande musica. Poi dopo questi anni, dopo Blood on the Rex, esce un altro grande album, perdonate, che però come è capitato in passato ha l'unico difetto di essere uscito dopo un disco così monumentale, quindi passa, almeno quando è uscito, passa un po' in secondo piano, che è Desire, che invece è un disco splendido, sì. Splendido. Dopo Desire, Dylan entra in un periodo difficile. C'è la separazione preannunciata, profetizzata, immaginata su Blood on the Tracks, diventa realtà, quindi non si sa nulla, non si sa molto della sua vita privata. Comunque immaginiamo che sia stato un periodo di grande dolore, nel distacco, e anche un periodo in cui lui ha una conversione al cristianesimo che un po' lo bolla. In realtà lui neanche in 2 anni dura questa fase, e lui nei fatti lo rinnegherà, anche dal punto di vista artistico. Quindi escono dischi minori, dischi sempre minori, cioè c'è una vera e propria involuzione, fin quando negli anni 80 riuscirà, nonostante sempre qualche piccolo picco, qualche grande gioiello nascosto, come dentro gli Infidels nell'83, ma comunque farà 2-3 dischi davvero, davvero brutti di seguito. Nella sua autobiografia, Chronicles, uscita una decina d'anni fa, lui racconta lo racconta abbastanza a lungo questo periodo, lo racconta come un periodo molto, molto duro, molto difficile, in cui lui aveva pensato addirittura di abbandonare le scene. Sarebbe uscito come un gigante dopo quello che abbiamo raccontato finora, la stagione degli anni 60, la svolta elettrica, i dischi degli anni 70, comunque sarebbe uscito come un grandissimo autore. Invece Dylan ha la fortuna di imbattersi in Daniel Lanois, che è un grande produttore, che regalerà finalmente un grande disco a Dylan, un disco che uscirà nell'89. Il disco nasce abbastanza casualmente, Dylan lo racconta nella biografia, racconta che era una cena, stava nella sua residenza a cena Bonovox, il cantante di U2, e che insomma sono finiti a parlare di musica, scolandosi, racconta una cassa di Guinness. Dylan mostra a Bono i suoi testi, i suoi ultimi lavori, lo si dipinge come poco ispirato. Bono resta molto colpito da quei suoi testi, chissà, forse gliel'avrebbe detto comunque. Gli dice: ma perché non, io voglio farti lavorare con Lanois, noi ci abbiamo lavorato con lui, di Joshua Tree tra gli altri, non so se l'hai sentito, firma Lanois, insomma è un grande, adesso è in America, e dai, lo chiamo e ti eri d'accordo. Insomma, nasce questo incontro da Dylan e Lanois, nasce in una città importante della musica americana, che chissà, certamente avrà aiutato Dylan nell'ispirazione, perché viene registrato a New Orleans. Lui, Daniel Lanois, è lì perché sta registrando Yellow of Moon, un bellissimo disco dei Neville Brothers, tra i musicisti più noti e più importanti di New Orleans. Il disco non lo racconto, lo racconta bene lui, l'autobiografia è molto bella, ve la consiglio, leggetela. Comunque il disco poi alla fine uscirà fuori di questo album, e sarà un grande disco di Dylan. Non è detto il nome del disco. Oh Mercy, infatti, siamo nel 1989. Noi da Oh Mercy ci sono molte sono delle canzoni note sull'album, per esempio Most of the Time, che ha fatto parte diverse colonne sonore. Noi però abbiamo scelto la seconda traccia dell'album, Where the Teardrops Falls, è una canzone che Dylan dice la registrano in una notte, dopo tante ore di lavoro andate a vuoto, non riuscivano a registrare degni di un pezzo dell'album, non trovavano la versione giusta e quindi sfiniti alle 3 di notte, zuppi di sudore, immaginiamo nel caldo della Louisiana, New Orleans. A un certo punto si mettono, Dylan tira fuori questa canzone, leggo un pezzo del libro. Nel bel mezzo di tutto ciò suona un'altra canzone che avevo scritto, Where Teardrops Fall. La feci vedere a Dopsy, un chitarrista e cantante, la registrammo in fretta, ci vollero 5 minuti e non era stata nemmeno provata in precedenza. Nel finale della canzone il sassofonista di Dopsy, John Hart, eseguì un lamentevole assolo che mi fece mancare il respiro. Mi chinai verso di lui e corsi un barlume del suo viso. Era stato lì seduto per tutta la notte al buio e io non mi ero accorto di lui. Hart era l'immagine sputata di Blind Gary Davis, il reverendo cantante che avevo conosciuto e seguito anni prima. Che cosa ci faceva lì? Stessa persona, stesse guance e mento, cappello a testa rialzata, occhiali scuri, stessa corporatura, stessa altezza, stesso lungo cappotto nero, ma non mancava niente, non mancava niente. Faceva paura. Reverendo Gary Davis, uno dei maghi della musica moderna, come se fosse risorto e stesse osservando il tutto, tenendo un occhio vigile su quello che accadeva. Da dove stava mi guardò in modo strano, come se avesse la capacità di scorgere le cose oltre il momento presente, come se avesse gettato una corda per afferrarle. Tutto ad un tratto, io so che sono nel posto giusto a fare quello che devo fare al momento giusto e che la Noa è la persona giusta. Era come se avessi girato un angolo e mi fossi trovato davanti alla faccia di Dio. Questo era il Dylan di Omerzi, il disco prodotto dalla Nuova, che è il disco che in qualche modo abbiamo noi, preparando la puntata, abbiamo detto il disco della rinascita, cioè torna in pista perché torna davvero con un grandissimo album, forse un po' sottovalutato quando è uscito, ma che sale dopo. Sì, diciamo un evergreen, resta un disco bello, bellissimo ancora, ovviamente ancora oggi. Quindi Dylan torna in pista, gli anni 90 sono anni in cui Dylan sta aggiustando il tiro, innanzitutto nel 91 esce, per i fan sarà un'epifania, esce il primo volume, anzi saranno tre volumi insieme delle famose Butter Series di Dylan, cioè un triplo album in cui lui, le tante canzoni leggendarie di cui si narravano cose meravigliose oppure che giravano i bootleg, quelli non ufficiali, insomma, vengono messi in un lavoro antologico bello, insomma. E questo è importante nella discografia di Dylan, diceva giusto al tiro. Innanzitutto Dylan, succede una cosa importante: nel 92 e nel 93 registra due album fondamentalmente tutti di cover di pezzi folk e blues, cioè il Dylan della svolta elettrica torna al periodo precedente, cioè lui torna a quello che aveva rinnegato, a quello che aveva mandato a quel paese, torna alle sue origini musicali e torna appunto con album, con pezzi non suoi. Aggiusta il tiro perché nel 1997 esce il disco che ci consegna il Dylan che è oggi, il Dylan degli ultimi 20 anni, 25 anni, è un album ancora prodotto da Daniel Lanois, e l'ultimo lavoro che faranno insieme, cioè il secondo e ultimo. E questo un po' divide i fan, perché il disco è meraviglioso, per molti è troppo prodotto. Poi Dylan si produrrà da allora in poi i suoi dischi, userà molti pseudonimi, soprattutto Jack Frost, ma insomma si produrrà da solo. Qui invece la mano del produttore si sente come, insomma, questo album. Poi Ale ce lo racconterà meglio, però gettano le premesse del nuovo Dylan, un Dylan che torna indietro, torna prima del blues quasi, torna, si fa proprio lui stesso tradizione, come un po' scompare Time Out of Mind, il nome dell'album del 97, un'espressione che significa tempo dei tempi, il tempo in memory, cioè lui si... Le calende greche. Sì, sì. No, non proprio così, insomma lui si sembra quasi nascondersi nella... ancora, no? Ancora un'altra maschera, forse un'altra proiezione, comunque si nasconde nella musica. Noi però non vi facciamo ascoltare un brano che è uscito nell'album, perché Dylan ha la grande capacità di tirare fuori, quando poi pubblica i suoi dischi, spesso le canzoni migliori o comunque canzoni gigantesche, ce ne sono, adesso non va noio, ma decine di esempi. Da questo album tira fuori una canzone che si chiama Mississippi, una canzone meravigliosa. Mississippi poi uscirà in un disco che si chiama Love and Thief, di cui parlerà Ale, però bellissima, in una versione diciamo rock. Qualche anno dopo, nel 2007-2008 non ricordo, esce l'ottavo volume delle Butter Series di cui vi accennavo prima, esce Mississippi in un'altra versione, una versione decisamente molto più lenta, più, una versione meravigliosa, appassionata, e anche il titolo sembra preludere a quello che sarà il nuovo corso di Dylan, Mississippi, cioè sembra risalire la corrente, tornare indietro, tornare alle origini di tutto, Mississippi. Step of the way, we walk the line. Your days are numbered, so are mine. Time is piling up, we struggle and we scrape. All boxed in, nowhere to escape. City's just a jungle, more games to play. We're trapped in the heart of it, trying to get away. I was raised in the country, been working in the town, been in trouble since I set my suitcase down. Ain't got nothing for you, had nothing before. Don't even have anything for myself anymore. Sky's full of fire, the pain is pouring down. There's nothing you can sell me, I'll see you around. My powers of expression and thoughts so sublime, they'd never do you justice in reason or rhyme. Only one thing I did wrong, stayed in Mississippi a day too long. Thank you. wonder I ever heard it all. I was thinking about the things that Rosie said. I was dreaming I was sleeping in Rosie's bed. I'm walking through the leaves, falling from the trees. Feel like a stranger nobody sees. So many things we never will undo. I know you're sorry, I'm sorry too. Some people will offer you their hand and some wound. Last night I knew you, tonight I don't. I need something strong to distract my mind. I'm gonna look at you till my eyes go blind. I got here following the southern star. I crossed that river just to be where you are. Only one thing I did wrong. Stayed in Mississippi a day too long. It's sinking fast. I'm drowning in the poison. Got no future, got no past. But my heart is not weary. It's light and it's free. I got nothing but affection for the move. Sail with me. Everybody's moving if they ain't already there. Everybody's got to move somewhere. Stick with me, baby. Anyhow, things should start to get interesting right about now. My clothes are wet, tight on my skin. Not as tight as the corner that I've painted myself in. I know that fortune is waiting to be kind. So give me your hand and say you'll be mine. The emptiness is endless, cold as the clay. Can always come back, but you can't come back all the way. Only one thing I did wrong. Stayed in Mississippi a day too long. Mississippi, in questa puntata dedicata agli 80 anni di Bob Dylan. Noi entriamo nel 2000, entriamo anche diciamo nell'ora che va dalle 9 alle 10, quindi siamo un po' in ritardo, abbiamo ancora qualche storia da raccontare, però fortunatamente il coprifuoco oggi ce lo permette. E gli anni 2000 sono anni di anche di importanti riconoscimenti. Gli viene assegnato, ce l'ha detto Fabio all'inizio, il Polar Music Prize. Vince l'Oscar con la colonna sonora di Wonder Boys, un Oscar cui lui tiene tantissimo, poi ne riparleremo. Vince il Golden Globe, inizia anche una nuova avventura, quella di speaker radiofonico. Quindi durante il Never Ending Tour registra proprio nella sua stanza d'albergo alcune trasmissioni tematiche, una trasmissione un po' come la nostra, no? Ora non so se raggiunge, no, credo, se raggiungeva questi livelli, cioè, ma porca miseria, comunque insomma massimo rispetto per un collega in cui metteva brani degli anni 30, 40, 50, però anche dimostrando di stare sull'attualità, anche pezzi pop, cose molto più recenti. Esce il film di Scorsese, No Direction Home, se non l'avete visto, so circa 3 ore, ma veramente godete se vi piace dire, ma anche per conoscerlo, perché poi è, insomma, è comunque un film di Scorsese su un grandissimo personaggio. E si consolida anche il rapporto con una città che Dylan ama molto, che spesso è citata all'interno delle sue canzoni, ovvero Roma, perché sceglie proprio Roma per presentare al mondo l'unica conferenza stampa di un disco che uscirà in una data in cui gli Stati Uniti probabilmente stavano pensando ad altro. Un disco molto atteso, poi, perché ha fatto The Matter of Mind. Un disco molto atteso che sì, appunto, seguiva l'altro. Comunque la data è l'11 settembre del 2001, usciva proprio questo Love and Thieves, Amore e Furti, una carrellata. Lui, diciamo, prosegue quel discorso che ci ha accennato Fabio prima, quindi comincia a immergersi nella tradizione americana, nel blues, nel folk, Nashville, il Mississippi, l'abbiamo ascoltato, lo swing, ci saranno degli omaggi a Frank Sinatra in una serie di album che un po', diciamo, attraverseranno il decennio, quindi Modern Times nel 2005, Together to Life, la musica scozzese nel 2009, Tempest, però siamo già entrati nell'altro decennio, proprio su Amore e Plagi, e appunto una Amore dichiarazione, Furti. Scusami, Amore e Furti, una dichiarazione di amore alla musica americana. Anche un manifesto d'intenti. Anche un manifesto d'intenti, perché lui lo mette tra virgolette Amore e Furti, poi in un'intervista com'è? L'unico album che mette al titolo su 39 o 40 che ne ha fatti in carriera in studio, che mette l'unico una virgoletta. Album tra virgolette. E questo poi è il primo album, cioè non è il primo album, dopo questo album, e poi sarà una costante nella carriera, anche in precedenza gli era capitato, ma meno in maniera diversa, dove viene accusato appunto di plagi da scrittori giapponesi, Omero, Ovidio, colleghi cantautori e quant'altro. Insomma, lui concede molto raramente le interviste e molto raramente è sincero, molto raramente risponde alle domande così come gli vengono formulate. In questo caso invece viene intervistato, questa intervista è del 2012, da un giornalista che si chiama Gilmore, che gli chiede, se non vi leggo la domanda perché è lunga, ma gli chiede questo, no? Dice: perché, come rispondi a queste accuse? Anche se lui gli fa la premessa che nel folk, nel jazz è normale citare, diciamo, a te invece viene contestato questo perché? E Dylan risponde: sì, certo, nel folk e nel jazz c'è una tradizione di citazioni e nessuno ci prova a ridire. Anzi, è verissimo, vale per tutti, tranne che per me, cioè gli altri possono farlo, ma io no. A quanto pare per me valgono delle regole diverse, ma se qualcuno crede che sia facile citare un altro in un modo che funziona per il tuo lavoro, posso solo dirgli di provarci e vedere se gli riesce. Solo i pedanti e i puristi si scandalizzano di certe cose, perché in realtà è una cosa antica, fa parte della tradizione, dura da sempre. Quelli che me la contestano ora sono gli stessi che hanno cercato di bollarmi come un Giuda. Giuda è il nome più dato nella storia dell'umanità. Se pensi di essere mai stato insultato, prova a scrollarti di dosso un nome del genere. Per cosa poi? Per aver suonato la chitarra elettrica? Come se una cosa del genere si potesse paragonare ad aver tradito, vabbè, e qua parla del Signore. Vabbè, questo è il senso della, insomma, la risposta il molto sincera. Dell'intervista. Lo fa, lo rivendica, perché poi dopo continua, dice: qualunque questa cosa si chiama comporre canzoni, c'entrano la melodia e il ritmo, e a parte questo vale tutto, qualunque cosa prendi diventa tua, lo facciamo tutti. E noi l'omaggio che ci ascoltiamo è High Water for Charlie Patton, lui è Bob Dylan. Gold and silver I've been storing away. Picture Turner looking east and west from the dark room of his mind. He made to Kansas City, 12th Street and Vine. Nothing standing there. I want a checks are sliding down. Folks lose their possessions, their folks are leaving town. Bertha Mason shook it, broke it, then she hung it on the wall. Say you're dancing with whom they tell you to, well you don't dance at all. It's tough out there. I won't I ever wear. I got a craving love for blazing speed, got a hopped up Mustang Ford. Jump into the wagon, love, throw your panties overboard. I can write you poems, make a strong man lose his mind. I'm no pig without a wig, I hope you treat me kind. Things are breaking up out there. High water everywhere. High water rising, 6 inches above my head. coffins dropping in the street like balloons made out of lead. What I poured into Vicksburg, don't know what I'm gonna do. Don't reach after me, she say, can't you see I'm round too? It's rough out there. George Lewis told the Englishman, the Italian and the Jew, you can't open up your mind, boys, to any conceivable point of view. They got Charles Darwin trapped out there on Highway 5. Judge says to the high sheriff, I want him dead or alive. Either one, I don't care. I want him everywhere. She's a pretty bird, she rubbles as she flies. I'm preaching the word of God, I'm putting out your eyes. I asked Fat Nancy for something to eat, she said take it off the shelf. As great as you are, man, you'll never be greater than yourself. I told her I didn't really care. In the morning I believe I've dust my broom. Keeping away from the women I'm giving them lots of room. Thunder rolling over Clarksdale, everything looking blue. I just can't be happy, love, unless you're happy too. It's bad out there. I wanna Water for Charlie Patton. Ancora due brani in scaletta, quindi dobbiamo necessariamente accelerare un pochino. Entriamo negli anni 2010, esce un disco che già abbiamo nominato prima, si chiama Tempest, che in parte prosegue le atmosfere di Love and Thief, ma ci riporta anche un Dylan grandissimo. Più l'atmosfera, proprio il lavoro. Il lavoro, sì, sì, sì. Cioè, cominciamo con un percorso. Sì, ma scusa. No, no, hai fatto bene a correggere un percorso che, come abbiamo visto, anche prosegue ancora oggi con l'ultimo disco uscito lo scorso anno. E quindi abbiamo scelto quest'album tanto perché è un bellissimo disco, ma anche perché contiene un omaggio a un altro grande artista. Per un certo periodo la stampa li aveva anche messi un po' in parallelo, due voci di una generazione. Lui è John Lennon e la canzone che è contenuta proprio in Tempest si chiama Roll on John, un omaggio quindi a John Lennon, un omaggio che anche qui sempre a criticare continuamente Dylan, qualcuno ha detto è uscito, ah, ce l'ha fatta a fargli un omaggio. L'amicizia tra i due, ma anche tra i Beatles in generale, diciamo, durava da diverso tempo. Era il 28 agosto del 1964 il primo incontro. I Beatles sono negli Stati Uniti, devono esibirsi al Paramount Theater a New York e Dylan fa di tutto per andarli a conoscere. Si vedrà il concerto sugli spalti. Da un lato resterà parecchio impressionato dalla differenza che c'è con i suoi concerti, perché qui le parole, nessuno ascolta le parole che cantano i Beatles, si pensa, insomma, ci sono le urla, le grida, gli strilli dei ragazzi e delle ragazze che li vedono, e lui dice invece ai miei concerti si stava quasi in rigoroso silenzio ad ascoltare quello che dicevo. C'è qualcuno, Fabio, so che non tu, che dice anche che questo incontro un po' lo condizionò poi per la sua svolta elettrica, perché lui insomma l'anno dopo inizia a cambiare completamente la sua musica. Poi di incontri ce ne sono e tanti altri. Tra l'altro, in questo del 28 agosto 64 è anche famoso Paul McCartney, lo ha ribadito anche un mesetto fa, è scritto in tante, anche in tanti libri sui Beatles. Fu la prima volta che loro fumarono marijuana, gliela offrì proprio Dylan. Ne fanno un racconto che sembra veramente che hanno preso, insomma, un acido di quelli potentissimi, chissà che erba c'aveva Dylan. Poi non partecipa a Woodstock, abbiamo detto, balli sulla di White ad accoglierlo, e ci sono proprio i Beatles senza Paul McCartney che gli portano a far ascoltare gli acetati di Abbey Road, ne abbiamo parlato nella nostra puntata dedicata al concerto dell'Isola di Wight. Quella sera, tra l'altro, c'è una gemma a casa di Bob Dylan, nella casa che lo ospitava, che chi ha assistito ha detto una delle cose più belle che la musica ci ha regalato. Purtroppo l'hanno vista in pochi, perché a parte Harrison, Dylan e the band che l'accompagnava non c'era nessun altro. E poi c'è l'incontro tra Bob Dylan e Lennon nella tournée del 66. Alcune immagini girano soltanto in rete, perché non sono mai entrate a far parte di nessun film. Le trovate molto facilmente. In pratica lui voleva girare il seguito del documentario Don't Look Back dell'anno precedente, e lui a prendere anche la telecamera, Dylan stesso, e fanno una ripresa di Dylan e John Lennon nel retro di una limousine a spasso per Hyde Park. Era mattina, la notte non avevano dormito e stanno in uno stato confusionale parecchio importante, che Damiano rabbrividirebbe, secondo me, se vede una cosa del genere. E lo trovate su YouTube, perché gira soltanto come un bootleg, diciamo così. E John Lennon invece inserirà diversi omaggi a Bob Dylan all'interno dei suoi dischi, per esempio in God, I Don't Believe in Zimmerman, in Give Peace a Chance, su Here Blues. E quando uscì invece Norwegian Wood, e noi ci stiamo ascoltando una canzone che è tratta da Blonde on Blonde, Fourth Time Around, e Dylan fa un po', scimmiotta un po' i Beatles, nel senso fa l'imitazione di John Lennon che imita Dylan. Sembra che la melodia di questa canzone che stiamo per ascoltare lui l'avesse fatta ascoltare ai Beatles quel 27 maggio, e da quel momento i Beatles stessi riconoscono, cambiò il loro modo di scrivere, si avvicinarono molto al tipo di liriche che Bob Dylan utilizzava. E Dylan infatti dice una strofa: io non ti ho mai chiesto un aiuto, mi sembra qualcosa del genere, una stampella, e tu non appoggiarti alla mia, facendo proprio riferimento al fatto, dice: ma che fare adesso, mi copiate la mia musica. E e tra l'altro Bob Dylan è uno dei soli quattro artisti musicisti che rientrano all'interno della copertina di Sgt. Pepper. L'omaggio a John Lennon è questo, Rolling John. Just like any other slave. They tied your hands and they clamped your mouth. Wasn't no way out of that deep, dark cave. Shine your light. Move it on. Your band's a bride. Tore the heart right out and cut it to the core. Shine your light. Move it on. You burn so bright. You've been cooped up on an island far too long. Shine your light, move it on. You burn so bright. Rolling John, Bob Dylan, certo lo poteva fare un po' prima sto omaggio effettivamente. Un po' tardivo. Un po' tardivo, dai. È arrivato quando è arrivato. E noi siamo arrivati a fine puntata. Ah sì? È vero. Eh sì. Quindi quale canzone chiudere? Abbiamo pensato con tante soluzioni, alla fine abbiamo scelto Ale Things Have Changed, delle canzoni di cui abbiamo parlato anche all'inizio puntata, una canzone che dal punto di vista anche commerciale certamente ha avuto peso nella carriera di Dylan, anche se fa ridere dirlo visto quante, non so, 700 canzoni mi sembra che abbia scritto. Sì, 700? Sì, più di 700, non vorrei dire scemenze ma sono quasi certo. La canzone ha vinto l'Oscar, ha vinto il Golden Globe e Oscar, che lui si appoggia. Oscar è quello che volevo dire, cioè lui gli piace molto questa statuetta, non sappiamo se porta una copia o se porta l'originale, ma probabilmente l'originale. Lui da un po' non suona più la chitarra per l'artrite, la suona pochissimo la chitarra e suona un piano elettrico, e l'Oscar ce l'ha appoggiato lì con Things Have Changed. Solitamente negli ultimi anni è stata la canzone che più spesso ha aperto i suoi concerti. Noi abbiamo preso una versione magnifica che è uscita, registrata l'anno stesso dell'uscita nel 2000 e contenuta nell'ottavo volume della serie dei bootleg ufficiali di Dylan. E basta, la presentiamo. Noi ci vediamo non martedì prossimo, quello dopo ancora. Bravissimo. E grazie. Chiudiamo. Things Have Changed. Ciao Bob Dylan, grazie a chi ci ha ascoltato. Alla prossima e sostenete Radio Onda Rossa, porca miseria. Gentlemen, I'm only